Basic Italian, 7th edition. Chapter 8. A. In this exercise, the speaker will make a statement. You will rephrase the statement by using the possessive adjective in place of the prepositional phrase. Listen as the model is done for you. Questa è la bicicletta di Carlo. È la sua bicicletta. Now it's your turn. 1. Queste sono le sorelle di Paolo. Sono le sue sorelle. 2. Questi sono i libri della signora Pisani. Questi sono i suoi libri. 3. Queste sono le chiavi di Antonella. Sono le sue chiavi. 4. Questa è la borsetta della zia Rita. Questa è la sua borsetta. 5. Questa è l'automobile dello zio Stefano. È la sua automobile. 6. Questi sono i calzini di Carletto. Sono i suoi calzini. 7. Questi sono i soldi di Corrado. Sono i suoi soldi. 8. Questo è il denaro di Angelica. È il suo denaro. 9. Questa è la lettera di tua sorella. È la sua lettera. 10. Questi sono gli auguri degli amici. Sono i loro auguri. B. Rephrase the statements you hear by using possessive adjectives. Listen to the model. La zia di Carlo abita a San Francisco. Sua zia abita a San Francisco. Let's start. 1. Gli zii di Paola abitano a Firenze. I suoi zii abitano a Firenze. 2. La cugina di Patrizia e di Giuliana vive in Argentina. La loro cugina vive in Argentina. 3. Il padre di Sandro lavora in una farmacia. Suo padre lavora in una farmacia. 4. La madre di Sandro non lavora. Sua madre non lavora. 5. La mamma di Fiorella, invece, lavora alla Biblioteca Nazionale di Firenze. La sua mamma lavora alla Biblioteca Nazionale di Firenze. 6. Il fidanzato di Fulvia è ingegnere. Il suo fidanzato è ingegnere. 7. L'ex marito di Carmela ora abita a Palermo. Il suo ex marito ora abita a Palermo. 8. Il fratello di Caterina e di Maria frequenta l'università. Il loro fratello frequenta l'università. 9. Il nonno di Patrizia è malato. Il suo nonno è malato. 10. Il babbo di Andrea è appena tornato dall'Australia. Il suo babbo è appena tornato dall'Australia. 11. Il padre di Ornella è un uomo molto difficile e antiquato. Suo padre è un uomo molto difficile e antiquato. 12. La mamma di Ornella è, invece, un vero tesoro. La sua mamma è, invece, un vero tesoro. 6. Your friend Andrea is, as usual, totally unprepared for the day's activities. He has nothing of what he needs. So, to keep him quiet, you offer him your own things. Listen to the model. Non ho il quaderno. Ti do il mio. Now it's your turn. 1. Non ho l'orologio. Ti do il mio. 2. Non ho gli occhiali da sole. Ti do i miei. 3. Non trovo la penna. Ti do la mia. 4. Non trovo il panino. Ti do il mio. 5. Non trovo la macchina. Ti do la mia. 6. Non trovo il dizionario. Ti do il mio. 7. Non ho la radio. Ti do la mia. 8. Non ho i guanti. Ti do i miei. 9. Non trovo le chiavi. Ti do le mie. 10. Non trovo i biglietti. Ti do i miei. D. You will now hear a sequence of 8 statements. After each statement has been made, change the statement to the singular. Then, check your response against the confirmation. Let's start. 1. I loro impiegati sono gentili. 2. Il suo impiegato è gentile. 3. I loro cugini sono partiti nelle loro automobili. Suo cugino è partito nella sua automobile. 3. Le tue idee sono anche le mie. La tua idea è anche la mia. 4. Ci sono anche le vostre zie? C'è anche tua zia? 5. I loro zii parlano tedesco. Suo zio parla tedesco. 6. Mi conoscono i tuoi compagni? Mi conosce il tuo compagno? 7. I miei fratelli sono arrivati ieri. Quando sono arrivati i tuoi? Mio fratello è arrivato ieri. Quando è arrivato il tuo? Otto. Le mie cugine sono state in una pensione. Mia cugina è stata in una pensione. E. For each response you hear, formulate the logical question that must have elicited that response. Use the interrogative adjective quale to formulate your questions. Listen first to the model. Leggono questi libri. Quali libri leggono? Now it's your turn. 1. Preferiscono il mio giardino. 2. Quale giardino preferiscono? 2. Ha trovato questa copia. Quale copia ha trovato? 3. Caterina frequenta la scuola elementare Gioacchino Rossini. Quale scuola elementare frequenta Caterina? 4. Ho studiato all'Università di Roma. A quale università ha studiato lei? 5. Siamo andati all'agenzia di viaggi Argonauti. A quale agenzia di viaggi sono andati? F. For each response you hear, ask the logical question that must have elicited that response. This time, use the interrogative adjective quanto in your questions. First, listen to the model. Ho due sorelle. Quante sorelle ha? Let's begin. 1. Compro due gettoni. Quanti gettoni compra? 2. Hanno invitato 100 persone. Quante persone hanno invitato? 3. Mangio molta carne. Quanta carne mangia? 4. C'è molto zucchero. Quanto zucchero c'è? 5. Conoscono molti italiani. Quanti italiani conoscono? 6. Non hanno molti soldi. Quanti soldi hanno? G. For each response you hear, ask the corresponding question. This time, choose between quale and quanto in formulating your questions. Let's start. 1. 6 panini, per favore. Quanti panini? 2. Costano 4.000 lire il chilo. Quanto costano? 3. Questa automobile costa moltissimo. Quanto costa questa automobile? 4. Preferiscono le automobili inglesi. Quali automobili preferiscono? 5. Di solito preferisco la carne di manzo alla carne di suino. Quale tipo di carne preferisce? 6. La pronuncia corretta è, naturalmente, la mia. Qual è la pronuncia corretta? 7. Solo 4, per favore. Quanti? 8. Ho visto il Museo Nazionale. Quale museo ha visto? 9. Sono stata all'albergo Stella Maris. A quale albergo è stata? 10. Siamo rimasti a Roma 7 giorni. Quanti giorni sono rimasti a Roma? H. Answer each question you hear as in the model in your manual. Listen as the model is done for you. Ha mangiato molti panini? No, ho mangiato solamente qualche panino. Now it's your turn. 1. Ha ripetuto molte parole difficili? No, ho ripetuto solamente qualche parola difficile. 2. Ha parlato con molti clienti? No, ho parlato solamente con qualche cliente. 3. Ha visto molti film giapponesi? No. Ho visto solamente qualche film giapponese. 4. Ha visitato molte città italiane? No, ho visitato solamente qualche città italiana. 5. Ha risposto a molte domande? No, ho risposto solamente a qualche domanda. 6. Ha comprato molti biglietti per la lotteria? No, ho comprato solamente qualche biglietto per la lotteria. 7. Now, in answering the questions you hear, replace qualche with alcuni or alcune. Listen to the model. Ha avuto qualche riunione ieri? Sì, ho avuto alcune riunioni ieri. Now it's your turn. 1. C'è qualche museo interessante in città? Sì. Ci sono alcuni musei interessanti in città. 2. C'è qualche vecchia casa in campagna? Sì, ci sono alcune vecchie case in campagna. 3. Ha pagato qualche dollaro? Sì, ho pagato alcuni dollari. 4. Qualche turista arriva da solo? Sì, alcuni turisti arrivano da soli. 5. Qualche suo parente abita in America? Sì, alcuni miei parenti abitano in America. 6. Qualche cliente è difficile? Sì, alcuni clienti sono difficili. J. Rephrase the statements you hear by using another form of the partitive. Let's begin. 1. Ho visto dei begli occhiali da sole. 2. Ho visto alcuni begli occhiali da sole. 3. Ha mangiato solo un po' di carne e un po' di frutta. Ha mangiato solo della carne e della frutta. 3. In Italia abbiamo fatto alcune belle gite. In Italia abbiamo fatto qualche bella gita. 4. Alcune persone preferiscono fare la spesa al mercato centrale. Qualche persona preferisce fare la spesa al mercato centrale. 5. Desidero del caffè macchiato. Desidero un po' di caffè macchiato. 6. Ho imparato delle espressioni idiomatiche molto utili. Ho imparato alcune espressioni idiomatiche molto utili. 1. Listen to the following narration, then answer the questions in your manual. Il mio nome è Giovanni Carli, ma tutti mi chiamano Nanni. Ho 10 anni. I miei genitori si chiamano Giuliano e Anna Carli. La mia famiglia non è grande. Purtroppo non ho fratelli. Vorrei avere un fratello per giocare a calcio. Purtroppo ho 2 sorelle. La mia sorella maggiore ha 23 anni e si chiama Giuliana. Giuliana frequenta l'università ed è molto antipatica perché si dà molta importanza. Il fidanzato di Giuliana è Fulvio, un ingegnere. Lui è veramente antipatico. Viene a casa nostra troppo spesso. Come noioso! La mia sorella minore, si chiama Patrizia. Lei ha 16 anni ed è più simpatica, ma anche lei è noiosa, perché parla solamente di ragazzi ed è sempre al telefono. Abita con noi anche la nonna Pia. La nonna Pia è la mamma della mia mamma. Lei sì che è simpatica, spesso compra il gelato e i cioccolatini per me e per le mie sorelle. Ma il mio solo vero amico è il mio cane Argo. Argo non gioca a calcio, ma spesso andiamo in giardino a mangiare il gelato insieme.